Mezzano Buccella Rita, nata a Besenello, migo tutti i ricordi di infanzia a Besenello, e ho i ricordi di Malga Palazzo. Malga Palazzo, perché appunto mio papà per diversi anni l'amministrà, il Malga Palazzo con tutte le proprietà del conte Trapp, che è a Besenello, per cui il maso. Lassù vicino al castello, Maso Trapp, che era un maso grande vicino alla Filanda, e poi che era anche dei campi oltre l'Adige. Mio papà la continuò, anzi la rinnovò il lavoro della malga, perché per diversi anni l'era stata abbandonata e lui la ricominciò. Allora l'era il lavoro che e già da subito dopo Natale, così andava nei paesi a cercare, prenotava le bestie che sarebbe stata a portare e andava fino a Nomi, Ciusolo, Pomarolo, fino a Pomarolo sicuramente, così che dopo il carico della malga veniva fatto al 12 di giugno. Se andava su prima a preparare tutto quel che era. E andava a cercare il casaro e sti alcuni ragazzi, gli uomini che facevano i pastori, i malgari. E così poi, il primo anno mi sembra che non le era tantissime le bestie, ma poi arrivati fino a oltre 100, forse 150, quello benissimo non mi ricordo. So che il papà per paura della siccità aveva fatto una pozza subito sotto il palazzo, che adesso mi sembra che la disfada, no? Non ha più. Ecco, e si finiva mezza stagione, la prima metà all'Imprick e la seconda metà a Malga Palazzo. Al 26 di luglio, il giorno di Sant'Anna, si finiva la pesatura del latte e quello mi ricordo che la vacca che al 26 di luglio la feva 3 litri di latte, la si pagava tutto l'alpeggio. Se l'era inferiore, il proprietario doveva pagare qualcosa, se l'era maggiore, l'era la malga che pagava. Non so, lei è un sistema che era tramandato da tantissimi anni.